Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Che cos'è il genio? È fantasia, intuizione, decisione e velocità d'esecuzione. All'indietro il pallone, Piqué, Buffon! Buffon! Insigne, che cambia gioco dalla parte opposta splendidamente per Darmian. Darmian in area di rigore, Darmian dentro, palla deviata, Graziano! Pelle! Ghiaccio per partita, 91-2-0! È finita qua, lo diciamo, chiudete le valigie amici, si va a Bordeaux, si va a giocare il quarto di finale con la Germania! A me fa ridere soprattutto Beppe Bergomi, che non riesce a essere trascinato dal ritmo di Caressa, dall'esaltazione di Caressa, e però tenta: andiamo a Bordeaux, ma gli viene male, non vede a Bergomi uno tutto impettito, pagato, misurato come a Caressa. Però Caressa urla: ghiaccio in partita, fate le valigie, andiamo a Bordeaux! E si sente Bergomi: a Bordeaux! Senti qua. Grazie, Angela, per l'accoglienza, grazie a François e Angela per l'invito. A quest'ora credo che gli italiani saranno molto attenti al processo di potenziale uscita dalla Spagna dai campionati europei, più che dal Regno Unito, ma in realtà, battute a parte, eccolo là. Era il suo modo molto infastidito per far sapere che proprio alle 18 hanno messo l'incontro Angela Merkel e François Hollande. Tanto la Germania non giocava, la Francia non giocava, gli hanno piazzato l'incontro, la conferenza stampa alle 18 più o meno. Chissà, Renzi era lì e dice: ma porcaccia la miseria, ma fatemi vedere l'Italia, no? E invece no. Vabbè, dai, è andata bene. La prossima cos'è? Sabato? Con la Germania. Ah, noi siamo sempre pacati sul calcio, eh. Siamo sempre pacati. Titolone della Gazzetta: Godemos! Godemos, non Podemos. Godemos. Titolone del giorno: Merkel, arriviamo! Con tre giocatori dell'Italia che esultano, vabbè. È il calcio, è il calcio. Eh sì, la Brexit, tra l'altro, la Brexit. Ieri l'Inghilterra a casa, con l'Islanda, geniale l'Islanda. Però, signori, non sono solo notizie positive. Ieri... Un dramma dell'infanzia che si materializza, prima o poi doveva capitare, e ci ha lasciato lui. ci ha lasciato lui. È evidente che voi chi sono io non lo sapete. Ma no, sì. Bud Spencer. Sei quello che ci ha distrutto la macchina. Bud Spencer. E ce la devi ricomprare nuova, giusto? No, giusto, Bud da. Spencer. Carlo Pedersoli. Ecco, qui c'è scritto dove sta la mia officina. Mamma mia, la voglio subito convocare il mio amico Vincino. Buongiorno, ciao Vincenzo. Ci ha lasciato Bud Spencer. Sì. Andrà, non ti preoccupare. Ci rimane Terence Hill. Ci rimane Terence Hill, vabbè. Sì. Dai, non ti faceva ridere Bud Spencer? Eh? Ti faceva ridere Bud Spencer? No. Non lo so, non me lo ricordo bene. No, no, dai, cioè, no, non mi dico, cioè, no, sì, va bene, insomma. Vabbè. Allora, Vincino, sì. Come distrugge tutto. Hai visto la partita? Manco quello. Sì. Sì, no, quello l'ho visto. Dai. Godemos, tutto a posto. Ma dove stai? Stai a Roma o nella tua Mondello? Ritirato nella tua Mondello? Ma che, guarda, sono qua stregato, bloccato. Vabbè. Devo controllare cosa succede qua. Sì, comune, no? In comune, tutto preoccupatissimo. Vabbè, insomma, mentre tu non sei in vacanza, mi sa che abbiamo sbrandato in vacanza la nostra Silvietta Brasca. Buongiorno del TG della 7. Buongiorno. Che tono, ragazzi. Dove sei? In Croazia. Sei in Croazia, fare la bella vita. Non credo che tu sia andata a fare un servizio importantissimo d'apertura del TG della 7. No, però arrivo in Croazia dopo un viaggio in Bosnia e Erzegovina, mezzo di lavoro che vi assicuro è molto interessante. Comunque no, sono qua in vacanza. Vabbè, sei in vacanza. E sei vengo dalla Bosnia. E vieni dalla Bosnia, quindi la Bosnia, la Bosnia, Croazia che è stata eliminata dagli europei, insomma, però avrai visto l'Italia, l'hai vista. Ci giriamo con un certo orgoglio. Vabbè, insomma, finché dura così. Va bene, dai, dobbiamo aprire il Parlamento perché qui alle 6:36 minuti. Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Grazie. Eccoci qua, saluto tutti quelli che ci seguono. Marco da Monteveglio ci scrive al 349-238-6666. Saluto questo ascoltatore. Come uccidere una trasmissione, invitare Vincino. Vabbè, eccoci qua. Presente. Cosa c'è, Vincenzo? Che ti c'è qualcosa che ti angoscia? Lo sento a Roma. Sei angosciato? Sei preoccupato? No. Devo dire no, ancora non mi sono svegliato bene, però, onestamente. Questo è il problema, non ti sei ancora ben svegliato, non è tanto. Esattamente. Allora, c'è da dire, prima di arrivare a Roma, che oggi i giornali raccontano in maniera preoccupata questa cosa. Gli inglesi forse si sono accorti di aver fatto una cazzata, questo dobbiamo dirlo, perché adesso è una corsa, sapete che è il primo a rallentare, a dire ma non è detto che la Gran Bretagna debba uscire così in fretta dall'Unione Europea, anzi la Gran Bretagna farà sempre parte dell'Europa. Boris Johnson, cioè lui proprio, Johnson, l'ex sindaco di Londra, quello con la zazzera bionda, no? Questo Vincino, bella materia per i tuoi disegni, no, Boris Johnson? È il primo a dire gli inglesi hanno sbagliato. Però vorrei chiederti questa cosa. Tu segui questa vicenda del hanno votato i vecchi contro i giovani in Gran Bretagna? Sai che si dice hanno tradito. Secondo me però che i giovani pare che non abbiano votato in tanti. In tanti non sono andati. Perché così, insomma, non sono andati a... Non lo so questa cosa qua, può anche essere per una parte, però... No, beh, è vero che tra i 18 e i 24 anni si è registrato il più alto tasso di assenteismo alle uno, di astensionismo. Però è anche vero... Però è anche vero che quelli come te, diciamolo chiaramente, quelli conservatori, quelli... non lo so, scusami Gioia, poi stamattina ancora mi sono svegliato, però... Stavi dicendo conservatore tuo zio, non lo so... Come dire, non ti ho da fatto un'accusa gravissima, conservatore, cioè le generazioni. Cosa è bruciante proprio la cosa, non lo so, io vorrei rivoltare sempre tutto. dottor. Nessuno ti ha mai dato del conservatore, effettivamente. No, ogni tanto ci provano, ecco. No, vabbè, ma non personalizzare, non intendevo come te, come quelli della tua generazione. Quelli della tua età. Siamo la Beat Generation, la fantasia al potere, abbiamo sempre scassato tutto, che vogliamo fare? Poi dopo, da vecchi, volete conservare, veramente no. Assolutamente no. Non volete conservare niente, proprio, quasi niente. Vorrebbe cambiare tutto. Non so, tu Silvia, visto che sei in questo punto di osservazione, dalla Bosnia Erzegovina alla Croazia, hai chiesto a qualcuno cosa ne pensano della Brexit? Non gli frega niente, cioè almeno la gente ne parla o no? No, sono preoccupati. Come? Perché in generale i soldi degli europei gli interessa. No, sono preoccupati, altro che. Sono preoccupati. E che dicono? Cioè, nel senso, perché adesso sembra che si sia diffusa questa idea di dire gli inglesi si sono accorti di aver fatto una stupidata. Ecco, questa è la... anche perché si pensa che nei prossimi mesi, insomma, l'attenzione su quest'uscita, sulle modalità d'uscita, come farli uscire, come non farli uscire, insomma, concentrerà l'attenzione, e quindi tutti i processi europei saranno insomma concentrati su questo, e quindi anche ci sono tutti i soldi che arrivano anche per vie traverse dall'Europa sui progetti, che qua non ci siamo, però sono preoccupati. Qua ci sono anche posti che vivono, iniziano a vivere di turismo, se c'è una contrazione addio. Addio. Vabbè, ma non è detto che poi con la sterlina bassa, insomma, non aumenti invece questo. Cioè, si vedono sempre solo gli aspetti negativi delle cose. Però, è che siamo in terre sconosciute, capito? In questo momento si è aperta proprio un momento, siamo dove Ixunt Leones, non si sa. L'incertezza, e questo è vero, non si sa bene dove andremo. Vabbè, ma questo per Vincino, che vuole scassare tutto, sarà un bene, no? Diciamo, si parla sempre di soldi, solo di soldi praticamente. E invece di che dovremmo parlare? No, non lo so, Enrico. Allora, come dire, era antipatica l'Europa così com'era, no? È insopportabile, diciamo. Juncker poi è il più antipatico di tutto, l'unico che si dovrebbe dimettere subito, andare via, è Juncker, la sua... La commissione. Ma sì, ma era molto più carina quando c'era Prodi, no? O quando c'era Delors, come dire, uno europeo vero, tipo apposta francese, italiano, non... E poi non lo so, poi... Non ti sei svegliato ancora bene. No, ma poi devo dirti, in famiglia sono preoccupatissimi, non è vero, assolutamente, le figlie, le cose terrorizzate, Però tu l'hai tradotta così sul foglio, no? La battaglia di Hastings. Mi sembra una cosa di quelle all'inizio un drappo lungo 120 metri, potrei raccontare tutta, insomma. La battaglia. Vabbè, insomma, siamo nell'anno 1000, quindi insomma, siamo tornati a quei tempi. Insomma. Ma l'Inghilterra sempre si doveva difendere, arrivavano i vichinghi, i normanni, quegli altri, no? Poi diventavano i re, insomma, era una lotta. È appena finito l'ultima puntata del Trono di... Di spade, il trono di spade, per quello tu io hai visto, sono esattamente hai visto il trono di... sei un fan, è un disastro, guarda, si sono ammazzati in sei un fan del trono di spade? No, così, insomma, dove finito Gomorra non rimaneva, dove c'era un po' di macelleria e il trono di spade. vabbè. Comunque, la notizia più tragica, la morte di Bud Spencer, la gente mi scrive, non ci crede, c'è chi non lo sapeva ancora. Ebbene sì, è morto Bud Spencer, però come dice Vincino, ma a quest'ora è così, ci rimane Terence Hill, che dobbiamo fare. Dai, parliamo un po' di cose italiane, perché vorrei allora capire che cosa ti preoccupa su Roma. Io lo so, tu sei un po' preoccupato, non vuoi dire niente. Ma ancora non ha finito con la giunta, non ha nemmeno levato quello dell'AMA, mi farò arrivare report quotidiani, come un sacchetto di immondizia ogni ora, che ne so, cosa vuole? Cioè tu ti aspettavi, la rivoluzione, tutta, la rivoluzione, come la rivoluzione. Il minimo, no, ti aspettavi la rivoluzione? Come non... Come dire, e via, no, e invece no, siamo in ritardo, è circondata, c'è cioè, un deputato europeo e uno regionale che si sono messi accanto e stanno là fermi, là, ma quelli non hanno niente da fare in Europa, alla regione, no, devono star là. Sei preoccupato, non fanno la giunta. Io se c'è bisogno di qualcuno che l'aiuti a capire come funziona la città. Mi sa che ti accoglierò con grandi abbracci. Però, ragazzi, se c'è una cosa che la Brexit ha aiutato nella comprensione, è questa, cara Silvia. Tu non hai letto i giornali italiani, ma sono scomparse le paginate e paginate e paginate inutili del dibattito. Per esempio all'interno del Partito Democratico, del dibattito all'interno della politica italiana, niente, tutto scomparso. Che bello, che silenzio, che cosa fantastica. I giornali li leggo. Sì, giornali li leggo. Li leggi online. Sì, e proprio se vuoi leggo l'attacco di Repubblica con Cita Sannino. Leggero, se mi freddo alla frutta, un impegnativo tapirulan, sembra che la decisione sia assunta, Silvio Berlusconi lascerà la guida di Forza Italia. È vero. Vabbè, ma è l'unico articolo oggi, è l'unico articolo che trovi sulla politica italiana. È vero. Silvio Berlusconi, questa è la notizia politica, l'unica... Pare che lasci Forza Italia come leadership, rimarrà comunque, insomma. E chi sarà il successore di Berlusconi? Attenzione, abbiamo dei nomi, ma ve li do dopo il traffico. Attenzione, perché ci sono dei nomi, tra poco. E ora Milan, ma non Saffogo, o Saffogo! Buongiorno, chi sta alla redazione mi deve fare la cortesia di dare un caro saluto a dottor Milan. Ciao Milan, ti volevo dire che i referendum consultivi si possono fare anche sull'euro. Secondo me quello che ha detto Monti è da querela immediata e da rimuoverlo da tutte le sue cariche, perché permettersi di dare dell'ignorante al popolo italiano e ha fatto più danni lui che lo tsunami, secondo me non dovrebbe neanche permettersi di parlare. Ma cos'è questa storia dei giovani inglesi che accusano i vecchi di avergli rubato il futuro? Quale futuro? Quello che passerebbero nei pub a sbronzarsi dopo che non sono andati a votare proprio perché erano sbronzi anche quel giorno lì? A Englishman in for sale, un piatto te lava sul, il piatto, wash alone, my friend. Uè Alessandro Milano, sono Nicola, sempre la pescheria. Hai visto che è successo? Che buttella hanno fatto i scissionisti, tenevano la piazza loro. Eppure hanno fatto innervosire a Don Mario, no? Don Mario Draghi. Che burdello, che burdello. Comunque dava gli dice una cosa, sto fish and chips. Ma io devo andare a fanculo proprio. Vicino, ti sei svegliato con questo messaggio dalla pescheria di Napoli. Il nostro Don Mario. Don Mario Draghi e gli scissionisti. Non è male come visione. Gli scissionisti e Don Mario Draghi. Don Mario Draghi che ha detto una tristezza, è un giorno di tristezza incredibile. Adesso bisogna capire cosa fare con le banche. Si discute se in Italia salvarle con denaro pubblico. Tu dov'è che hai il conto, Vincino? Dov'è che hai il conto, i soldi? Non te lo dico. Vabbè. Abbiamo il segreto. Non era una cosa. Vabbè, comunque dai, vi faccio sentire Di Battista. Ieri Renzi è andato alla Camera a parlare di Brexit e il miglior amico di Vincino, Di Battista... tu sei più amico No, io guardo, devo dire Di Battista è 10 volte più bravo di Di Maio. Infatti è per quello che Di Battista ha carattere, come dire. Grinta. Ma l'ho sentito l'intervento di ieri. Sentilo qua come si è arrabbiato con Renzi, senti. Questa Europa, noi ci ritroviamo, non ci ritroviamo in voi, siete voi che l'avete tradita, nello spirito dei padri fondatori europei, noi ci ritroviamo, siete voi che poi vi siete convertiti sulla via della JP Morgan e della BCE. Che ha detto che querela, che querelate, ma sono medaglie al valore le querele fatte da voi, querelate, ma che pensa di intimorirci? Avete preso una batosta recentemente, neanche avete detto due parole, pensate di intimorirci con le querele quando diciamo la verità, quando stanno ancora aspettando i risparmiatori di banche Etruria che sono stati truffati dalle vostre insomma Di Battista ha fatto una riconversione europea a 360 gradi in due minuti, effettivamente in due minuti, questo... da che sai che odiamo l'Europa, devono uscire dall'Europa, devono uscire da tutto, loro sono i più europei di tutti, è meraviglioso. Effettivamente, padre fondatore. Effettivamente sì, questa cosa, il padre fondatore dell'Europa. Padre fondatore dell'Europa. Questa cosa ha colpito anche me. Un po' come Boris Johnson, che si scopre adesso europeista quasi convinto. Per due hanno un po' di capelli bianchi, devo dire. No, ma perché quell'altro Farage, che non lo conosco, chi è Farage? Mai visto Farage? Ma che? Mai visto? Ma siamo alleati, ma dove? Ah, ma è un caso quello là a Bruxelles, per caso che siamo visti al bar. Vabbè, UKIP. Cioè, invece di fare essere felice, il nostro alleato ha stravinto. Ah, meraviglioso, niente. Loro sono padri fondatori. Sono diventati padri fondatori. Non so, Silvia, ti colpisce questa conversione anche te del Movimento 5 Stelle? Altro che mi convince. A parte la povertà dell'intervento di Nico, che ho sentito come lessico politico, ma anche perché anche loro non sanno dove stare. Se avevi letto, c'era stata un'analisi bellissima dei commenti sul blog di Grillo. Ripeto, è un momento in cui bisogna, dopo che ci hanno fracassato con il keep calm lì, adesso che ci sarà il momento in cui bisogna stare calmi, no? Invece bisogna stare a mettersi lì e cercare di capire cosa succede. Appunto, come il voto dei giovani, hanno tradito i giovani, sono andati a votare, ma non se ne può più di questa cosa. È vero che certamente la maggior parte di persone conservatori come Vincino che hanno una certa età hanno votato per la Brexit, però la maggior parte delle persone che non sono andate a votare hanno tra i 18 e i 24 anni, diciamolo chiaramente. Ma eravamo a Silvio Berlusconi, caro Vincino, ti ho dato tempo per pensare. Allora succede questo: Silvio Berlusconi, l'unica pare che la certezza che c'è negli ultimi 25 anni della politica Silvio italiana Berlusconi. È lui, cioè, no, è ancora là, è ancora là. Sta ancora in ospedale. Dove sta? Sta in ospedale. Ma forse uscirà qualche giorno prima, se Zangrillo, il medico, consente. Ma sai chi potrebbe sostituire Berlusconi? No, come leadership te lo dice Silvia Blasca, che ha letto tutto. Dai, chi potrebbe... Allora, cito Concita. Sarebbe quindi Totti. Cito Concita Sannino di Repubblica. Sarebbe quindi Totti designato a scalare il partito. Congiure e fronde permettendo. Ah, congiure e fronde permettendo. Giovanni Totti. L'agenda immaginata dalla suite San Raffaele prevede una ripresa di dialogo con l'Alfano e l'NCD, un tentativo di ricucitura con Ala di Verdini, oltre che con gli ex DC Fitto e Casini. Cioè, rifanno la mucchiatona. Insomma. Fitto, Casini, Verdini, Alfano. Chi è il migliore o il peggiore, Vincino, secondo te? Di questo gruppo Fitto, terribili. No, Verdini, cioè, tra Alfano e Fitto, assolutamente. Cioè, Alfano è terribile, non è che Fitto è un altro di quelli là delle Puglie, là, uno che ha fatto un partito a conservatori europei. Sì. Inglese, ha fatto un partito inglese. Potresti entrarci tu in conservatori europei, non ti senti un po'? Con un simbolo appreso da un film di Disney, no? Il leone di Disney, là, del Re Leone ha preso il simbolo là, ma è una cosa, cioè, vabbè. Ma potresti... volte meglio 5 Stelle, dai, obiettivamente. Che poi hanno capito il centro della politica italiana, che è la giravolta, è l'adeguamento dei tempi. Insomma, hanno capito la vera lezione politica italiana e quindi sono pronti a governare. Madonna mia, guarda, fammi andare in Inghilterra di corsa, vabbè. Non è finita, perché tu, cara Silvia, hai letto solo Repubblica, ma c'è anche Il Giorno che dà dei dettagli in più. Repubblica dice che Toti potrebbe sostituire Berlusconi, ma secondo Il Giorno mettono a capo di Forza Italia, auguri, un manager del Milan. senti l'interista come gode, come ride. Alfonso Cefaliello gestirà conti e organizzazione, general manager del Milan. Hai qualcosa da dire? E poi c'è anche un portavoce, sarà Valentino. No, no, del Debbio. Ancora? Perché ancora del Debbio? No, ma ci aveva provato tanti anni fa di fare il sottosegretario e fare politica, no? Ha fatto anche l'assessore a Milano. Poi ha fatto trasmissione. Come dire, è un ritorno, ma perché? È un ritorno, non lo so, vabbè, è bocciato, ragazzi. Lui ha delle ragazze bravissime, aveva la ministra là, quella di Napoli, la Carfagna. La Carfagna è l'unica, là è brava, intelligente, è carina, dai. È passato. Ma guarda, rispetto a Toti, per favore, brutto vecchio, pacchione, dai. Cos'è che è? Brutto vecchio? Pacchione. Pacchione, cosa vuol dire pacchione? Appesantito. Ah, pacchione, un po'. No, vabbè, insomma. Pacchione. No, io adoro i pacchioni veri, lui a me tanto. Un po'... Vabbè, pacchione. Silvia, questa non l'avevo mai sentita. No, neanche io. Pacchione. Ma è italiano, no, è siciliano. È siciliano. Va bene, insomma, Vincino che dice molto meglio il Movimento 5 Stelle, ragazzi. Mi si è stravolto, anche tu, appena vedi qualcuno al potere subito. Per me il potere mi fa... Ti dà goduria un po'. Io sono un tecnico, riguardo come tu guardi l'Islanda da fuori e dici, bravissimo, hanno giocato bene, no? Tu sei affascinato dalla tecnica, è apposta. Tu quando vedi il potere... Non bisogna mai farsi coinvolgere emotivamente. Non capisci più niente quando vedi il potere. Insomma. No, quando lo vedo, come dire... Lo blandisci, vuoi avvicinarlo? Avvicinarlo mai, sempre da lontano, mai conoscerli di persona. Mai. Qual è l'uomo di potere che hai conosciuto di più e ti ha fatto più schifo? La mattina, guarda, non si è ancora svegliato niente. La prima mattina non... con chi mi devo inguaiare per la vita, guarda, proprio. No, va bene. Allora, cos'è che è questo? Niente. Siamo arrivati quasi alla conclusione. Sento comunque un eco lontano. Senti un eco lontana. Ma comunque, è l'eco. Ma che l'inno alla gioia! È il coro dei pompieri di un film di Bud Spencer e Terence Hill. Sempre altrimenti ci arrabbiamo. Cioè, un momento mitico. Se n'è andato anche Bud Spencer. Ci rimane Terence Hill, però insomma, io non lo so. Questa era mitica. Sicuro che ci pensavi tu. Era mitica questa scena. Mitica. Silvia Brasca, grazie dalla Croazia. Ovviamente, ciao. Buone vacanze. Vincino, ciao. Un abbraccio. Buon risveglio. E sta attento. Qualche volta cerca di guardare lassù. Ma quello è il killer di prima. Sì! Sì, ma come ci è arrivato qui? Ce l'ho portato io! E in due si muore meglio, no? No! Silenzio! Il segnale orario vi è offerto da... Assicom, vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. E allora, cari ascoltatori, eccoci qui, sono le 7:19 minuti, debosciati miei, quanto tempo è che non vi chiamo così affettuosamente, con un abbraccio, una tenerezza infinita. Amici, sono le 7:19 minuti, questa è 24 mattino e siamo Alino, pronti. Alino, il primo debosciato sei tu! Un po' è vero. Confesso. Allora, siete contenti per la vittoria dell'Italia? Siete contenti per la vera uscita dell'Inghilterra, non della Gran Bretagna, cioè la sconfitta con l'Islanda? Aveva ragione Forchielli, mi sa che dovremmo sostituire nelle barzellette